Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ho fatto lessare i fagiolini, ho tagliato a pezzetti la crescenza, l'ho aggiunta ai fagiolini scolati e intiepiditi. Parliamo dei fagiolini, ma innanzitutto sono dei legumi o sono degli ortaggi? Allora, ingredienti: mezzo chilo di fagiolini. Prendete 400 grammi di fagiolini. Allora, vediamo la scheda sui fagiolini. Contengono fibra, ferro, potassio, calcio, vitamina A e C. Oggi preparerò un buon piatto di spaghetti con fagiolini e pesto. Ma avete talmente tartassato col fatto che questa è l'ora delle massaie, che state facendo il soffritto, che io dedico questa puntata ai fagiolini. I fagiolini sono legumi molto importanti, hanno una loro dignità storica. Greci e romani mangiavano fagiolini già dall'antichità, mentre i fagioli, quelli che volgarmente chiamiamo fagioli, sono stati portati da Cristoforo Colombo, vengono dal Messico, quindi il fagiolino ha una sua storia. Il fagiolino è diventato anche la pietra di paragone di quello che potrebbe accadere in talune situazioni anche agli uomini più potenti del mondo. Il fagiolino è diventato l'indicatore di una sorta di sommessa e scellerata decadenza che si consuma alle spalle anche delle persone che sembrano essere immarcescibili. Il fagiolino è diventato il segno indicatore di quanto siamo un popolo di approfittatori, un popolo di vigliacchi, un popolo di leccaculo. Perché? Lo dobbiamo questa scoperta fantastica a una cara collega che si chiama Marianna Aprile. Marianna Aprile, buongiorno. Buongiorno. Non ridere, perché la responsabilità è tutta tua. Se oggi parliamo di fagiolini, se l'Italia si interroga sull'obbrobrio del fagiolino a 80 euro al chilo, lo dobbiamo a te. Come nasce la storia del divino fagiolino? No, guarda, in realtà è una cosa molto casuale. A margine di questa chiacchierata con Francesca Pascale, con la fidanzata di Silvio Berlusconi, quando le ho chiesto conto delle voci malevole che girano su di lei, sono tutti molto arrabbiati con questa signora da quando è entrata lei in casa, pare che, insomma, che faccia il bello e il cattivo tempo, almeno questo ci raccontano le cronache. Lei ha risposto difendendosi, dicendo: è ovvio che mi vedano come una iena, perché quando sono entrata in casa ho trovato una situazione inaccettabile, era tanto tempo che non c'era una donna in casa. Su questo si potrebbe non c'era una donna, insomma, fissa. Esatto, una sola donna in casa. Poi dillo, questa è un'intervista che hai fatto su Oggi, che è uscita questa settimana, sì, che è il tuo giornale. Oggi. Sì. Quindi oggi gli italiani avranno tutta la possibilità di vedere quanto in realtà la misura, il conto economico, il peso del fagiolino nel paniere della spesa quotidiana di Palazzo Grazioli, in realtà di abbia di Arcore? Sì, lei si riferiva alla... Ad Arco. No, prima avevamo fatto già un'inchiesta, pensando che fosse a Palazzo Grazioli questo fagiolino che a Berlusconi fanno pagare 80 euro al chilo. Avevamo già fatto un'inchiesta al mercato di Campo dei Fiori, dove sappiamo che in realtà vendono ortaggi come se fossero gioielli. Quindi Arco, ma tu hai avuto... Spiegami innanzitutto la fattispecie, cosa ti ha detto Pascale? La cosa è questa, da quello che racconta Francesca Pascale, negli ultimi mesi, cioè da quando lei è stabilmente, in realtà insomma un po' di più, ma insomma da quando è stabilmente ad Arcore, ha messo in atto una sorta di spending review della Magione. Guarda. Ora, la spesa, ma c'ha ragione. Sì, perché comunque bisogna immaginare le dimensioni, no, della casa, cioè è una vera e propria azienda di medie dimensioni, tra personale... Ma non hanno un orticello dove possono coltivare i fagiolini? No, non pare che si approvvigionino fuori. E comunque lei, insomma, ha evidenziato una serie di sprechi nella ordinaria amministrazione della casa, tra cui appunto il costo spropositato dei fagiolini, ma anche per esempio l'arrivo di casse di pesce, quando è noto a tutti che il cavaliere gli fa schifo l'odore non mangia pesce, ma gli fa schifo anche l'odore. Quindi insomma, la signora si è comportata come una madre di famiglia e si è fatta spiegare un po' di cose in quella che era la normale gestione della casa. E questo le ha tirato, diciamo, degli asti. degli asti. Però mi sembra che è fondamentale, visto che non ci interessa tanto il contorno quanto il punto in sé, la morale, se vogliamo trarre una morale, un insegnamento, o vogliamo aprire una riflessione a cui possono collaborare e contribuire effettivamente le nostre ascoltatrici chiamando all'800240024, il punctum dell'intervista di Marianna Aprile a Francesca Pascale è questo: a lui fanno pagare i fagiolini 80 euro al chilo. Te sei donna che fa la spesa, Marianna, oppure sei presa dal tuo lavoro? No, faccio la spesa. È tanto 80 euro al chilo ai fagiolini? È tanto? Insomma, sono tanti anche 8 euro al chilo i fagiolini. Quindi cosa si presuppone? Che esiste una sorta di genia di terribili profittatori che, approfittando del momento... Ma credo di questo Berlusconi fosse a conoscenza già da tempo. Sì, ma non sui fagiolini, su altro tipo di mercanzia probabilmente. Credo su qualsiasi tipo di mercanzia che abbia a che fare con la sua vita, nel senso che dal cotè, diciamo, dei suoi svaghi privati a quello politico, all'economia domestica, credo che abbia avuto modo tempo fa di accorgersi che non proprio tutti sono lì per devozione e affetto. A me mi ha fatto riflettere questo fatto dei fagiolini 80 euro al chilo. Mi torna indietro la memoria a un film importante, Il Marchese del Grillo, un film epico di Alberto Sordi, che impersona un personaggio molto noto alla corte di Papa Pio VII nel 1809, nell'ultimo sprazzo di Roma papale, prima che arrivassero i napoleonici a usurpare il regno pontificio. Responsabile fu proprio Alberto Sordi, Marchese del Grillo, perché quella notte andò a giocare alla gara della corsa delle rane invece che presidiare il Sacro Soglio. Beh, il Marchese del Grillo, che era persona buontempona e amante degli scherzi, almeno nella riduzione filmica, scambia se stesso con un carbonaro, con Angelino il carbonaro, un alcolizzato preso per strada. La prima cosa che fa Angelino il carbonaro, esattamente come fa Francesca Pascale, quando si sveglia la mattina nel letto lussuoso del Marchese del Grillo, circondato da servitù, si accorge che tutti lo prendono per il culo. Il Marchese del Grillo, che era potentissimo, ricchissimo, poteva fare quello che voleva, godeva del favore del Papa addirittura, si faceva fregare dal suo amministratore. Ma che tieni tu i conti? Sono il suo umilissimo amministratore, signor Marchese. E fammi vedere sti conti. Quanto spende mentre a sta casa? Oh. Ma perché? Non si fida di me. Sono generazioni che amministriamo la sua famiglia. Prima mio nonno, poi mio padre, adesso io. Ma che t'offendi? Per esempio... Quanto pagiamo il carbone? Fammi sapere. Che possiamo pagare? Che possiamo pagare? Quanto pagamo? 7 paoli il quintale. E a carbonella? 4. E le fascine per accendere il fuoco? 5 a dozzina. E a legna? E quella non la compriamo, viene dai nostri boschi, la vendiamo. E quanto ce famo? 10 a quintale. Oh, vedi, siamo coglioni. Ma come, compriamo tutto a 3 volte il prezzo corrente e solo la legna veniamo a metà? Questo è un singolare paradosso che colpisce probabilmente le persone che non hanno tempo, non hanno maniere, non hanno modo per entrare anche nello specifico dei loro piccoli affari familiari. Come appunto accade al Marchese del Grillo, anche a Silvio Berlusconi, qualcuno alle sue spalle, piccole formichine, vigliacchissime e squallidissime formichine, si approfittano del fatto che lui ha un potere illimitato di pagamento. Dice: non me fido, ho fatto bene a vedere i conti. Altro che, se tu mi freghi qui, mi freghi su tutto. Perciò sei un ladro. Sei ladro tu, tuo padre e tuo nonno. E io vi licenzio a tutte e 3. Aspetta un po'. Prima la faffa cotto. Dimmi una cosa. Ma quel vitello che se siamo bevuti già a tavola, ma come famo noi? Sì, signore. Viene dalla vigna del Mascherone. Sì? E quanto ce n'emo? Parecchie botti di quello nuovo più quello vecchio imbottigliato. Ecco, se magari il personaggio potente in questione, ma anche altri personaggi potenti, facessero questa riflessione, andassero a guardare i conti della spesa, una volta diceva il conto della serva, proprio perché veniva considerato meschino, era considerato una sorta di appannaggio di cui la persona titolare del censo, della casata, del titolo, del nome, non doveva nemmeno occuparsi. Ma cosa mi fai fare, il conto della serva? Beh, forse in questo paese è proprio ora di iniziare dal conto della serva. E il conto della serva questa mattina ce lo fa Alberto Albuzza. Buongiorno. Buongiorno a voi. Alberto Albuzza è il titolare della ditta Alma SRL, una società grossista con punto vendita all'interno del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Milano. Trova esagerati 80 euro al chilo per dei fagiolini? Ma direi che è un prezzo veramente fuori di testa. Oggi noi qua sul mercato di Milano abbiamo faticato per la merce più bella, più fine, quella che noi chiamiamo i cappelli d'angelo, una vendita all'ingrosso di circa 5 euro al chilo. Pagargli 80 euro, ma non sono fagiolini. Beh, però al dettaglio quanto può arrivare? 5 euro al chilo, quanto può arrivare al dettaglio? Ma ipotizziamo anche di arrivare al doppio, e poi ipotizziamo 10. Anche che questo prodotto venga a essere pulito, no? Tolta la testa. L'occhio, e gli tolgono l'occhio, l'occhio del fagiolino. Ecco, ma santo cielo, ma 80 euro al chilo, no, non esiste. Allora facciamo un'ipotesi, Alberto Albuzza. Sì. Consideriamo il più esclusivo fruttivendolo e verduriere che possa esistere a Milano, la via più esclusiva, dove vanno tutte le fighe pettinate della città, dove vanno tutti gli stilisti, tutti i ricchi, che li confezionano una sorta di cestello fatto con tela e crew di un grande stilista. Quanto può farli pagare al massimo senza essere arrestato? Esageriamo, 15 euro al chilo. Ma proprio tanto. Già è passibile di un'attenzione della Guardia di Finanza per 15 euro. Ma cosa c'è che costa 80 euro al chilo? Nelle sue merci, il tartufo, cos'è che costa 80 euro al chilo? Il tartufo arriviamo anche ai 3.000, ai 3.500, ai 5.000 euro a seconda delle stagioni al chilo. Ci sono tanti altri articoli che sono abbastanza costosi. Però voglio dire, hanno ci sono delle ragioni valide, il prodotto che arriva via aerea dall'altra parte del mondo. Ma se arrivano dei tartufi a Berlusconi, allora li paga 6 milioni al chilo, se tanto è il rapporto. Diciamo che milioni esistevano una volta, diciamo 6.000 euro al chilo o 10.000 euro al chilo. Sì, ci sta. Se il rapporto è tale. Ma di fagiolini quante varietà ci sono? Per capire, magari sono quelli più lussuosi, più rari, più fuori stagione. I più lussuosi sono quelli che noi attualmente stiamo importando dal Kenya e arrivano via aerea, ma voglio dire, li stiamo vendendo noi a 10 euro al chilo, ma... Quelli del Kenya, il fagiolino del Kenya, diciamo, è molto ricercato. Sì. Beh, e poi capisce. Voglio dire, ma qual è la differenza? È pagato da quei costi che sono del trasporto aereo. Ma in cosa diciamo si differenzia la qualità del fagiolino del Kenya per costare 10 euro al chilo? La tenerezza, la pezzatura, è veramente un prodotto al top. E allora, teniamoci un attimo sospesi, ci ha parlato Alberto Albuzza, che se ne intende perché dirige una società grossa, l'Alma, al mercato ortofrutticolo ingresso in Milano, anche il ricercatissimo, tenerissimo e iperdimensionato fagiolino del Kenya, massimo può arrivare a 10 euro al chilo. Come fa ad arrivare a 80 euro al chilo il fagiolino che si compra nella casa di Arcore? Melog, cronache meridiane. Sì, lo so, ho detto una cazzata, non è colpa mia, me l'ha scritto Fabrizio Intonti. Il carbonaro del Marchese Grillo si chiama Gasperino, non Angelino. Ed è Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, pensando a Angelino Alfano, dato il momento e le dispute che girano attorno al sacro fagiolino, quindi pensava Angelino. In realtà è Gasperino. Gasperino è il carbonaro che si accorge che anche alla corte del Marchese del Grillo c'è chi se ne approfitta, facendo lui pagare la legna 10 volte quello che vale. La stessa cosa accade alla corte di Arcore. Se n'è accorta Francesca Pascale, grazie alla pungente e attenta e stressante e incalzante intervista di Marianna Aprile, che oggi è pubblicata da oggi in edicola, dove lei rivela quella che è la verità, che in fondo a tutti noi fa pensare, fa riflettere. Anche una persona così potente, così ricca, così espansa, così acuta nel valutare le situazioni e nel valutare i lati negativi e positivi dei suoi interessi, si fa fregare facendo acquistare alla sua magione 80 euro al chilo i fagiolini, quando abbiamo visto che, come ci ha detto l'esperto dei mercati generali, anche il ricercatissimo fagiolino keniota massimo, nonostante le sue grandi dimensioni e la sua tenerezza, può costare 10 euro. Luigi, come la pensa? Sì, pronto? L'ascolto, Luigi. Sì, buongiorno. No, io la penso così, a me, indipendentemente da un costo dei fagiolini 80, 100 euro, perché uno dei propri soldi poi alla fine ne può fare quello che vuole. Basta che lo sappia. Si può far fregare dal maggiordomo, da chi va a fare la spesa. A me quello che preoccupa, e dovrebbe preoccupare gran parte degli italiani, che negli ultimi 20 anni ci siamo fatti amministrare da uno che si fa fregare in questo modo. Vabbè, adesso lei la sta buttando in politica, poi faccia quello che vuole. No, io ma lo sto buttando potrebbe, in politica perché sì, vabbè, adesso, sì, personaggio, però, il personaggio è politico. Sì, è politico, ma fra le tantissime colpe che ognuno può attribuire a qualsiasi personaggio politico, in primis se volete a Berlusconi, non si può onestamente dire ci ha amministrato uno che paga i fagiolini 80 euro al chilo. Non ci avrà fatto caso, avrà pensato altre cose. Piuttosto le domando, ma secondo lei è una prassi ricorrente che le persone che hanno grande potere, grande disponibilità, poi capita che qualcuno della loro corte in realtà se ne approfitti in queste piccole cose? Ci sono storie infinite di maggiordomi diventati ricchi, di cavalier serventi che si sono fatti le case facendo la cresta quotidiana alle spalle delle persone a cui sembravano fedelissimi. Sì, ma uno che ha a servizio gente del genere, cioè dovrebbe accorgersi se mi stai fregando meno, insomma, perché se io mi fido di te, uno che amministra milioni di miliardi di fantastilioni di euro sta a guardare gli 80 euro del fagiolino, è sulla fiducia, evidentemente si fida. Sentiamo Umberto. Sì, dottor Nicoletti, buongiorno, sono appunto Umberto Zanassi, lavoro in una piccola azienda nel settore, non voglio fare pubblicità, ho fatto il cuoco privato per diverse famiglie all'estero. Allora, l'ha detto prima lei, il problema è molto semplice, bisogna vedere se chi comprava questi fagiolini non faceva la cresta. Purtroppo nelle famiglie private non stiamo parlando solo di maggiordomo, ma in famiglie private di un certo livello stiamo parlando proprio di un entourage, un vero e proprio entourage, dove ci sono delle cose tacite. Non mi dica, visto la esperienza, mi faccia capire che noi siamo abituati ad attribuire questa sorta di infame mercimonio, questa cresta sugli acquisti e derrate alimentari. Finora si diceva, perlomeno ai tempi della Naia, i marescialli si portano a casa le forme di formaggio, ma forse erano leggende metropolitane o militari. Ma oggi si dice gli ospedali, gli enti pubblici, le mense dei grandi istituti, lì pagheranno tutto 100 volte. Ma una casa privata può capitare qualcuno gli rimangano attaccate percentuali elevate di spesa domestica? E allora, prima sentivo che giustamente diceva quando la signora Pascale è entrata in questa casa ha voluto vederci chiaro su determinate. Le fatture arrivano nelle case come arrivano nelle aziende, basta solo leggere la fattura e vedere il prezzo al chilo, è solo un minimo. Chi doveva controllare al posto della persona che è arrivata adesso o non controllava o si arricchiva, ma quindi diciamo lei la mette molto più dura, dice c'è un amministratore sicuramente in ogni casa dove c'è un passaggio così corposo di entrate, di uscite, di approvvigioni, è un po' come fosse un ristorante, immagino, Arcore, quindi chi è che amministrava questa cosa? Quindi la Pascale lancia un messaggio trasversale probabilmente. Marianna Aprile, questo interessante sviluppo proposto all'ascoltatore Umberto, su te va un bersaglio ben preciso quando dice c'è chi compra i fagiolini 80 euro, a chi si riferiva secondo te? Guarda, la questione è articolata, nel senso voci abbastanza varie, nel senso proveniente da fonti diverse, sostengono che nella riorganizzazione della gestione della casa la signora Pascale abbia in qualche modo messo alla porta lo storico maggiordomo Alfredo. Ma vedi che siamo arrivati. No, però aspetta, bisogna dirla tutta, nel senso raccontano di questo invito, diciamo, a farsi da parte, a cui però il maggiordomo Alfredo ha risposto con una lunga intervista al Fatto Quotidiano pochi giorni dopo, sostenendo che invece no, lui era tempo che voleva lasciare, che se n'è andato per aprire questo ristorante alle porte di Roma, anche con l'aiuto del finanziamento del cavaliere per la fedeltà dimostrata in questi anni. Gli darà fagiolini gratis per anni in cambio della fedeltà? Mi pare il minimo, ma la cosa su cui ti vorrei far riflettere è il tuo inconscio, però, perché tu il carbonaro l'hai chiamato Angelino. Sì, lo so, però invece si chiama Gasperino, l'abbiamo già detto. Ma Angelino apre tutto un altro... pensavamo al fano. Evidentemente, sai come si fa a liberarsi dai fantasmi che rimangono imprigionati del nostro inconscio dopo un massaggio quotidiano di cronache? È chiaro che... Però sai cosa? Se mi permetti, se ho ancora qualche secondo... Dai, chiudite. L'affare Fagiolino ci dovrebbe far riflettere su una delle grandi domande... dei grandi quesiti che ci poniamo sulla presenza. Lo so, tu vuoi parlare della statuetta etifallica di cui si parlava? No, assolutamente no. È quello, pensavi? No, è il fatto che siamo passati a parlare di Fagiolini dopo aver parlato a lungo di quella statuetta. Di Patonza, Ce la dice lunga sui reali motivi per cui evidentemente questa signora riscuote così tanta attenzione da parte. Tu alludi a un immiserimento fisiologico, ma sei no, come Vito Crimi se no, dici no, questo. No, io parlo del fatto che ci per segano, una volta in quella casa è entrata una donna vera. Una donna vera, questa è la conclusione e ci fa tanto piacere e ci conforta. Grazie a Marianna Aprile.